Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Fidel, Fidel, olé, olé, olé, olé. Parece el cagüete, pero Fidel, te banco a morir. Che sto meglio di prima, perché sono ingrassato, è vero? No, non è vero, invece allora, sei bellino, no, sei molto bellino, sei bellino. Bisogna andare a votare e votare con un deciso e responsabile no, per il bene del nostro paese, per la democrazia nel nostro paese, anche magari per cambiare finalmente un governo che non risolve nessuno dei grandi problemi che abbiamo. Sulla scheda c'è scritto Renzi antipatico o c'è scritto cambiamo questo paese? E non ricapita l'occasione. Per altri 10 anni, 15 anni, 20 anni, io vi guarderò dalla televisione con i popcorn, vedere la gente che dice basta con la casta. Eh no, amici, se volete dire basta alla casta, c'è la matita domenica 4 dicembre. E ho dei nipotini che sono straordinari. E ce n'è uno, per esempio, che ha 3 anni, preso abbastanza da me perché c'era una bella ragazza invitata quella sera per il compleanno di mia figlia Marina, che era abbastanza generosa nel mostrare le sue bellezze, è venuto vicino a me 3 anni e mezzo e mi ha fatto: "Nonno, posso baciarla?" Io non voglio sapere la tua risposta. Oh ragazzi, è la settimana decisiva, questa volta lo dico io. Non per la casta, ma per un'altra parola che fa rima. Basta! Basta! Comunque vada a finire, non è bellissimo? Non guardate a domenica come il 25 aprile anticipato o posticipato, se lo vedete arrivare dopo, una liberazione che io vi giuro non provavo, ve lo dirò poi il 4 dicembre, il 5 dicembre, non provavo da anni un'idea di liberazione. Basta, basta, basta, basta, basta. Peraltro per una riforma, adesso lo dico, una riforma che secondo me in una scala da 0 a 10 vale 2. Due rispetto alla riforma del lavoro, la riforma della giustizia, la riforma di tante tematiche che imbrigliano l'Italia, la riforma della burocrazia. Ma volete mettere il confronto? Mamma mia, basta! Io il 4 dicembre andrò a votare, perché andrò a votare, questo sì lo posso dire, non posso dire come, perché altrimenti ci blindano, ci sono già i carabinieri qua fuori che mi scrutano, con la faccia, hanno la faccia di Peter Bescapè in regia e Lorenzo Nespo in redazione. Andrò a votare, poi uscirò e dirò: è finita. È finita. Alla prossima campagna elettorale, che sarà sicuramente ancora più cialtronesca di questa, perché ogni volta diciamo che è la peggiore quella arrivata, ma questa, la prossima sarà peggiore di quella di prima. Va bene, tenete duro, amici, tenete duro ancora una settimana. Cosa volete che sia una settimana nella vita? Niente, dai, passa in fretta, passa subito, passa in frettissima. Intanto qui a 24 mattino ci siamo, sono le 6:35 minuti. Lapa, lapa, dula, dula, lapa, dula, dula, ce l'ho dula, dula, dula, dula, lapa, lapa, dula, dula. Saluto il mio amico Tiziano Crudeli, grande Tizianone. Così. Prova a colpire, deviazione, la palla sulla traversa e poi dentro. E ce la ribadina Simeone. Prima ha toccato Rigoni, poi una deviazione. Ma voglio subito poi convocare Simeone, una persona la cui fede calcistica dubito un po', dubito, ma secondo me ci siamo dentro in pieno. Lo forse Juventino, è forse Gobbo Stefano Esposito? Buongiorno. È Gobbo? È gobbissimo. Eccolo là. E allora ricordavo bene Stefano. Era fatta apposta questo pezzettino? No, non lo so. Noi abbiamo sempre lunedì, sempre, quando ci sono ovviamente delle tutti gioie. Tutti lunedì. Delle gioie. Certo, gol di Simeone, l'autogol. No, diciamo che il lunedì, quando ci sono dei momenti di gioia da condividere, non sempre, ecco, non sempre questo, no, però quando ci sono, quando le domeniche ha svoltato per il verso giusto, noi così facciamo sentire una piccola sintesi calcistica. Insomma. E questa settimana mi sembrava doveroso. Per omaggiarla, sono momenti rari. E questo è vero. Ma chissà anche questo. Allora, Stefano Esposito, senatore del Partito Democratico, voglio salutarlo insieme a Flavia Perina. Flavia, buongiorno. Buongiorno. La cui fede calcistica invece ignoro, agnosco, ma credo che sia un po' agnostica anche lei. Sì, sono abbastanza agnostica. Infatti voi mi chiamate spesso di lunedì e io sono impreparata, perché mi dimentico sempre la domenica di prepararmi. Sai com'è finita almeno Roma, Pescara? Quello lo so anche della Juventus, diciamo, le cose fondamentali non mi sono sfuggite. Esatto, è la giornata del 3-2 Roma Pescara, 3-1 la Juve, però non per il verso che pensava e sperava Esposito. E che dobbiamo fare? Ma attenzione, dobbiamo parlare del tema fondamentale, il referendum, dai una settimana, e mi dicono e continui a parlarne, che devo fare? Cioè, che devo fare? Guardate che è una tortura, ma che devo fare? Ieri, tra l'altro, apriamo il Parlamento, va. Puntatona dalla D'Urso. Ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra puntatona così, dalla D'Urso, forza, in serie si sono presentati Silvio Berlusconi, poi Matteo Renzi. Flavia, puntatone. Sì, una super puntatona. È anche bizzarro che, va bene, ormai questa campagna elettorale sta tracimando dappertutto e ci manca soltanto che la vediamo, non so, dentro i telefilm, dentro... Sì. I telefilm della sera che sbuchino fuori durante i contest musicali, perché ormai è onnipresente. No, è terribile. Hai ragione te, è stata una campagna elettorale troppo lunga, sette mesi di campagna elettorale. Poi guarda, adesso la devo raccontare, vi giuro è successo, me la sono sognata anche, mi sono sognata che mi arrivava un messaggio WhatsApp in cui c'era un sondaggio con la voce di Renzi, ma ve lo giuro, ma potessi veramente essere fulminato qui in questo momento, ve lo giuro, c'era la voce di Renzi che diceva: allora, se devi votare sì, vota così, se devi votare no, vota di qui. E io non vedevo questo messaggio WhatsApp e dicevo: ma cos'è sta cosa che sto ascoltando? È successo anche questo. Vabbè, tu ne devi parlare tutte le mattine, quindi diciamo, immagino una specie di ossessione ormai. È abbastanza. Chissà come ti sentirai solo il 5 dicembre. Ah, no, guarda, 5 dicembre. Adesso di che parliamo? No, adesso di che parliamo? Ma guarda, ancora per 3-4 giorni si parla dei risultati. Fino dei risultati. A Natale ci arriviamo. Fino a Natale ci arriviamo. Fino a Natale ci arriviamo. Esposito, ci arriviamo fino a Natale, perché il concetto è. Facciamo anche Capodanno. Guarda. Anche Capodanno. Allora, la faccio questa domanda a Stefano Esposito, perché Renzi, settimana scorsa, quando l'abbiamo ospitato, ovviamente non ha svelato tutte le carte, forse per scaramanzia. Caro Esposito, ma se dovesse davvero vincere il no, Renzi cosa fa lunedì 5 dicembre? Magari o martedì 6 dicembre o mercoledì 7 dicembre. Vabbè, non le ho, il mazzo delle carte non ce l'ho sicuramente io. Ma no, cosa... No, secondo me un po' lo sta dicendo, un po' credo che abbia anche una razionalità politica. Il fatto che in caso di sconfitta lui rimette il mandato al Presidente della Repubblica. Ma in realtà questo non l'ha mai detto, dice non voglio vivacchiare, queste formule un po' così vaghe, non voglio di qui, non voglio di... Cioè, vada a Mattarella. A me parrebbe assolutamente ragionevole, necessario e anche corretto. In un paese in cui, per la verità, nessuno mai dà le dimissioni da niente. Grave errore, no. Infatti. Mai. Ci si trattiene sempre trovando una buona ragione. Mi parrebbe ragionevole per lui, di fronte alla scelta dei eventuali dei cittadini, di dire no alla riforma. Poi quello che succede da lì in avanti, onestamente, sì. lo decide Mattarella. Sarà tutto da vedere. No, ma è interessante perché poi per mesi invece quelli che gli danno contro, soprattutto lo stesso partito, dicono no, ma se perde rimanga lì. Ma c'è una ragione per questo. E cioè? Cioè chi vota no e sta nel Partito Democratico sa perfettamente che le sue eventuali dimissioni lascerebbero un precedente, e cioè un precedente che in questo partito, ma come dicevo prima, in Italia è abbastanza raro, perché in politica quando perdi vai a casa. Come voi sapete, e poi d'altra parte ieri c'è stato un ulteriore esempio dalla D'Urso, no? Sì, cioè noi siamo ancora qui a discutere di Berlusconi. Che ha annunciato anche che forse potrebbe ricandidarsi se la Corte di Strasburgo. Ma vi sembra un paese normale questo? Ma non Berlusconi, adesso lascia perdere Berlusconi, perché potremmo parlare del fatto che abbiamo ancora D'Alema sugli scudi, no? Nessuno di quelli che ha perso fatto un passo indietro deciso. Vi risulta? Avete notizie di Cameron in giro? Avete notizie? Non so, forse in vacanze. Sì. Cioè adesso francamente noi siamo proprio un paese particolare, però chiaro, si dimette, però la voce che corre più sui giornali, vorrei coinvolgere su questo Flavia Perina, è se vince il no, reincarico, cioè accettare il reincarico di Mattarella e poi voto a primavera. Mamma mia, mi sta venendo il mal di testa. Flavia, aiutami te. Allora, prima una precisazione, in realtà proprio il principale avversario in questa partita di Matteo Renzi, cioè D'Alema, quando perse le elezioni regionali si dimise, quindi diciamo non è vero che nessuno si dimette in Italia, ogni tanto qualcuno si dimette. E dopodiché è ovvio che il dopo elezioni secondo me è abbastanza segnato, sia nel caso che dica sì, sia nel caso che vinca il no, si dovrà rimettere mano alla legge elettorale per andare a votare. Ovviamente se vince il sì è un processo che gestirà Matteo Renzi, se vince il no è probabile invece che Mattarella preferisca far gestire questo processo a una figura terza, istituzionale. Il governone tecnico. A questo punto diciamo saranno poi successivamente gli italiani a decidere chi ha vinto e chi ha perso questa partita. Le speranze secondo me di Renzi sono quella, magari se perde il referendum, di poter avere una rivincita di tipo elettorale. Non dimentichiamoci che lui in ogni caso resterebbe capo del Partito Democratico, ha fatto capire chiaramente. Quindi sai, quelli del suo partito che gli dicono ah no, devi restare eccetera, là sono pure terrorizzati alla vendetta, un po' sì. C'è da dire che insomma è tutto chiaro per i nostri ascoltatori. È una settimana, però Esposito anche per chi fa politica, non è che non se ne può più, cioè proprio del tipo arrivi questo 4 dicembre e basta. Per la verità sì, anche perché insomma siamo per chi la sta facendo la campagna elettorale comunque. Io oggi mi faccio ben tre cose, comincio con una scuola e finisco con un'assemblea. Sempre stasera, perché, quindi, ricordiamo la settimana scorsa, essendo lunedì, al Senato. No, questa settimana, a prescindere dal lunedì, è chiuso il Senato ed è chiusa anche la Camera. È giusto. Perché c'è la settimana per la campagna elettorale. In realtà la Camera stamattina fa l'ultimo voto sulla legge di bilancio. C'è la settimana bianca. Però potreste venire a farvi un giro con me, poi vediamo alla fine della settimana se siete che è bianca, chi regge, rossa, bravo, potrebbe essere un'idea, così vediamo chi regge della cassa che c'ha la settimana bianca, vediamo chi regge i ritmi del senatore Esposito. Io lo ospito io personalmente, ma è fantastico, voglio sapere tutto di questo lunedì noiosissimo di Esposito. Allora, no, in una no, scuola non è no per me è noiosissimo, tu non lo puoi dire ovviamente. No, no, ma non è noiosissimo. Vabbè, ma per me è noiosissimo. Però alle voglio sapere. Vado in un liceo. Peraltro vado in un liceo a Moncalieri, che lo voglio dire, è la città colpita dall'alluvione. Quindi è chiaro, è questo. Vabbè. E, studenti maggiorenni, mi confronto niente poco di meno che con Airola. Con Airola. Airola. Mitico, mitico. Airola, che si è candidato anche a Torino, no? Sì, lui è torinese. Sì. Poi alle 12.30 faccio un passaggio a un mercato a Torino. Mercato? Ci sono del mercato, già che ci siamo, anche, già che ci siamo un po'. Poi di compere è l'ora giusta. No, vabbè, uno a casa porta anche due melanzane, già che c'è, no? Giustamente. Bisogna sempre. In realtà la spesa viene subito dopo, nell'intervallo di pranzo. Mia moglie mi ha fatto la lista, se volete vi mando la foto. Sì, sì, sì. Beh, quello mi farebbe molto piacere per sapere sempre se Virginia mangia sano. Virginia è la figlia di... Non riesco a farle mangiare la verdura, devo inventare la soluzione. È un gran classico. E poi la giornata si conclude? La giornata si conclude alle 21 a Pino Torinese. A Pino Torinese, sempre per un incontro, ovviamente. Un'assemblea pubblica. Assemblea pubblica. Vediamo. Vabbè, pomeriggio libero. Flavia Perina, com'è una giornata stressante per un parlamentare? Pomeriggio libero? No, che pomeriggio libero? In campagna elettorale, chi è in politica deve lavorare molto. Io ero curioso di sapere un'altra cosa da Esposito, ma col senno di poi, ma non è stato un catastrofico errore far durare questa campagna così a lungo? Non era meglio votare a ottobre, votare a settembre, votare quando si doveva votare e levarsi questo dente un po' prima, anche dal punto di vista del risultato, perché l'area del governo era convinta che allungando la campagna elettorale avrebbe avuto più chance di vittoria. Sì. Col senno di poi che ne pensa Esposito? Sarebbe stato... Io personalmente ero tarato per votare a ottobre, quindi... Ecco, quindi insomma ci saremmo risparmiati. Io avevo cominciato sulla spiaggia a fare campagna elettorale. Ho detto, vabbè, capito? No, perché questi è da rotto quest'anno. Pensate uno che cammina sulla battigia, incontra il senatore Esposito che gli chiede: ma lei vuole abolire il CNEL? Vuole abolire questo CNEL? Io avevo cominciato seriamente, da cosa sono rimasto fregato. Io avrei usato secchiello e paletta per inseguire il senatore Esposito. Vabbè, insomma, sulla battigia sei anche lì a quei prendere grossi fucili ad acqua che... Sì, esatto, venga qua Esposito, venga qua che cominciamo a far fuori un senatore con i pistoloni ad acqua. E va bene, devo andare al traffico, dai, rientriamo tra un attimo. Alessandro Milan, sei solo traffico e distintivo, traffico e distintivo, traffico e distintivo. Eolo, internet ultra veloce per il business, scopri l'offerta su eolo.it. vi presenta Caro Milan, buongiorno, ma questi che fanno le code per il Black Friday, quel cacchio che è, ma a lavorare niente? No, perché di solito di venerdì si va al lavoro. Napoleone, presidente del CNEL, ha detto la cosa giusta, che tutti sanno. CNEL, sì, vabbè, abolito, ok, si chiamerà CNOL. A Roma finalmente è tornata la buona scuola. I genitori con i figli a schiaffoni devono prenderli. Fino al 4 dicembre training autogeno, autocontrollo, espiazione, mortificazione della carne e dello spirito. Esposito, il buon De Luca. De Luca, ma quanto vi imbarazza, De Luca? Io non l'ho mica capito se vi imbarazza. Io lo metto sempre quando parla, è un mito per me. Fa questo modo di raccontare le cose che solo lui. Poi però politicamente non lo giudico, non lo so, chi se ne frega. Ma quanto vi imbarazza il buon De Luca? Personalmente non mi imbarazza. Di sicuro le sue performance politiche lo renderanno molto molto ripopolare dalle sì. sue parti, dalle nostre. Non tanto. È un po' imbarazzato, allora si può dire. Vabbè. La gente da noi si incazza, ecco. Ecco così. Vabbè, Flavia Perina, quindi abbiamo capito che questa campagna elettorale doveva durare meno, però dai, ce la stiamo scavando via. Teniamo ormai siamo arrivati. Tutto il visibile è stato detto, ecco, compreso siamo molte cose di De Luca totalmente fuori luogo. Sì. Allora, però, Flavia, ti voglio chiedere una cosa, da donna di destra, si può dire, no? Cresciuta. Cresciuta a destra. Adesso poi oggi destra, sinistra, ma chi se ne frega. Comunque, Fidel Castro, eh? Io non capisco perché non si può dire in maniera chiara che era un dittatore, è stato un dittatore, centinaia di migliaia di persone torturate, centinaia di persone trattate. No, bisogna dire comunque no, ma aveva più volti l'aspetto del Fidel Castro. Oh, da donna cresciuta a destra, che ne dici? In realtà che fosse un dittatore e che abbia tenuto Cuba in una specie di morsa di ferro, l'hanno detto e scritto tutti, comprese moltissime persone che da ragazzi si lavano con la maglietta di Fidel Castro. Quindi c'è stato perché anche allora però Fidel Castro però perché è stato un personaggio centrale nel braccio di ferro con l'America, uno dei grandi protagonisti della guerra fredda, è stato in qualche modo uno che ha vinto, ce l'ha fatta contro un colossale impero, ha seppellito 3 o 4, forse 5 presidenti americani che tutti avevano giurato di farlo fuori nell'arco di pochissimi mesi appena eletti, e quindi sicuramente è una figura in qualche modo storicamente svettante. Dopodiché a me non sembra che non si possa dire, mi sembra che lo abbiano detto tutti, e mi ha sorpreso appunto che lo abbiano detto tutti persone che a 20 anni magari si sarebbero definite castriste o tifavano apertamente con lui. Dopodiché non ci possiamo dimenticare che a Cuba prima di Castro ci stava Batista, quindi non è che c'era un grande questa cosa molto poco empatica, secondo me, che non ci si mette mai nei panni di chi magari quella dittatura l'ha subita. Quindi tu ti distingui nell'America, sì, certo, nell'America Latina più o meno io penso che 8 cittadini su 10 nella generazione prima della nostra hanno vissuto sotto una qualche tipo di dittatura. La dittatura di Castro, come la dittatura di Somoza, come la dittatura di altri, in quel mondo lì c'erano le dittature in quell'epoca, quella di Castro è stata particolarmente violenta nei confronti di alcune categorie. Però attenzione, perché mi sembra che sono le 6:54, io vorrei chiedere un giudizio a Esposito, ma mi sembra che sia l'orario di sveglia di Virginia, adesso non vorrei... Stavo giusto svegliando i due più grandi adesso. Sei anche multitasking, altro che le donne! Veramente ha fatto la colazione nel frattempo. Mentre tu parlavi del dittatore Castro, io da dittatore li sto tirando giù dal letto. Giusto, la signora Esposito è veramente fortunata. Questo marito fai tutto. Vabbè, ma sicuramente dirà: oh, vuoi andare al mercato, a scuola, al liceo, all'incontro pubblico? Mia moglie sta mettendo insieme la colazione per tutti e tre, quindi sta a grattarsi le ginocchia. È un gioco di squadra come quello del Genoa, una cosa proprio di quelle. Ma vogliamo finire questa storia di ieri oppure dobbiamo andare avanti al lungo? Vabbè, mi dica in 20 secondi cosa ne pensa di Castro, Esposito. Non sono stato castrista, condivido quello che ha detto la Perina, francamente tutti quelli, ho visto delle commemorazioni che mi hanno fatto rabbrividire, io non ho commemorato, è morto, è un personaggio della storia indiscutibilmente, francamente sentirne parlare come un mito assoluto o il peggiore dittatore del mondo, ha ragione Perina, bisogna sempre contestualizzare anche nei paesi. Non ha festeggiato la morte di qualcuno sarebbe Non ha festeggiato nel senso la figura di Castro, no, festeggiato. Ma io sono un po', cioè io Che Guevara, li ho sempre guardati come figure della storia, non ho mai mitizzate, insomma. Va bene, dobbiamo fermarci qui con Stefano Esposito, senatore del PD, e Flavia Perina, vi ringrazio, alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Scegli Pantera col TH, scegli l'ERP di Infracom Italia per competere nel mondo.